A bordo campo di Dario Ricci. L'Europe du foot de papa, mâle, machiste e blanche, c'est fini. E Dieu merci, cela ne reviendra pas. È finita l'era del calcio bianco e machista. Queste le parole del presidente dell'UEFA, Michel Platini, che hanno segnato la conferenza dell'UEFA sul rispetto e la diversità, di fatto la conferenza contro il razzismo e contro le discriminazioni nel calcio europeo, che si è svolta pochi giorni fa a Roma. E sarà questo, ed è questo il tema a cui dedichiamo la puntata odierna di A Bordo Campo. Perché? Perché di fatto chiaramente da italiani ci siamo interessati ai risvolti, alle parole del famigerato ormai caso Tavecchio, no? Il caso che coinvolge il nostro presidente federale, il presidente della Federcalcio, perché per le ormai famigerate frasi razziste. Ma di fatto, insieme a tanta retorica, perché il tema ai noi si presta, la conferenza UEFA sul rispetto delle diversità nel calcio, qualche contenuto, anzi qualche storia, qualche elemento importante per il presente e il futuro del calcio europeo l'ha fatto intravedere. E allora cominciamo a sentire proprio le voci dei protagonisti. Beh, caso Tavecchio, che comunque c'è stato, è stato presente nei dibattiti, nelle interviste, nei dialoghi, nei corridoi di questa conferenza, di fatto sotto i riflettori anche quella che è l'ambasciatrice ora della Federcalcio per quello che riguarda i temi proprio dell'integrazione e del rispetto etnico. Fiona May, l'ex grande campionessa dell'atletica leggera, che è stata chiamata proprio dal presidente Tavecchio a ricoprire questo ruolo. Inevitabile allora incontrarla e chiederle anche un suo parere su quello che è il fenomeno della discriminazione nel calcio, per lei che è un esordiente in questo mondo, e anche quali saranno i suoi obiettivi concreti in un ruolo che è diventato immediatamente scomodo. Allora sentiamo proprio Fiona May cosa ci ha detto. Andare avanti per capire, anche per cambiare, anche punire questi che ha fatto questi problemi, individuare, non fare un gruppo, perché non sempre tutti i gruppi che fanno questi problemi, fanno queste violenze, perché è una violenza rispetto alla persona. L'esordio, Fiona, nel momento un po' più difficile, sì, però, no, del caso Tavecchio, ti mette in difficoltà questo l'esordire proprio in una situazione così complessa, essere comunque anche avere questo incarico come frutto di questa complessità? Ma no, io non c'entro nulla, io non c'ero e non ero dentro la federazione quando è successo questo incidente e sono entrata adesso. Mi fa piacere per fare questo cambiamento, per fare una cosa, però io non, questo è passato, io non c'entro nulla, io sto facendo quello che mi ha chiesto e ho detto va ben venga, speriamo, facciamo qualcosa, perché non vuoi perdermi tempo, neanche il mio nome, capito? Cioè, se vuoi fare qualcosa preferisci stare a casa, però ecco, se possiamo... Hai paura di essere magari... Di correre il rischio di essere semplicemente, sì, certo, un simbolo, uno strumentalizzata. Certo, come solito, è successo una volta, non vuole succedere che adesso, capito? Cioè, giustamente, però penso che il presidente Tavecchio anche tutte le cose sanno. Se mi ha chiesto, ho detto di sì, significa che dobbiamo fare qualcosa. Così Fiona May, chiamata sicuramente ad un ruolo difficile e impegnativo, ma avete sentito che grinta, è la stessa che aveva nelle pedane del salto in lungo, dove ha conquistato praticamente tutto. Tanti protagonisti del mondo del calcio, spicca anche quel Clarence Seedorf che... come allenatore avrà avuto le sue idee, le ha ancora, e certo non ha fatto la fortuna né sua né del Milan la scorsa stagione, ma altrettanto certamente è uno dei paladini della lotta contro le discriminazioni nel calcio continentale. E allora proprio a Seedorf abbiamo chiesto quali potrebbero essere gli atti concreti da mettere in campo per contrastare la diffusione del razzismo e delle altre discriminazioni, perché la conferenza UEFA puntava anche a fare il punto sui fenomeni di contrasto di omofobia, discriminazione di genere. Di questo fra poco parleremo. Beh, Seedorf, personaggio sicuramente non banale, che rifugge la banalità, qualche idea Direi decisamente interessante, a proposito ce l'ha, sentiamo. Il calcio ha questo potere di poter influenzare tantissima gente, l'unione che si sente anche intorno a questo movimento è molto positivo, però diciamo la sfida è di tradurlo in azioni concrete, ma sono certo che avverrà presto. Questa tua proposta di questo protocollo, prima e dopo la gara, sul modello del rugby, pensi sia attuabile? Già hai sondato un po' il terreno? No, io credo che la Fiorentina, se non sbaglio, aveva iniziato questo discorso che mi piaceva molto, purtroppo non è stato portato avanti, per quello credo che deve essere un obbligo di farlo, come è un obbligo nel rugby, è un obbligo che va a cambiare poi tantissimi elementi psicologici, proprio perché l'approccio è che nel calcio è permesso di continuare la partita anche quando è finita, invece con una diciamo approccio diverso, quindi con un protocollo diverso, obblighiamo tutti di accettare la sconfitta, il gol preso all'ultimo minuto, che tu in 3 minuti devi star là e dar la mano al tuo avversario perché la partita è finita. Questo è lo sport, no? Perché poi alla fine vediamo i 100 metri atletismo, dopo quei 100 metri è finita, chi ha vinto, chi ha perso, e poi si gira pagina. Questo credo che diventerebbe una evoluzione culturale del calcio, un'educazione verso chi ci guarda, perché anche per loro poi capiscono che non ha senso continuare a dibattere dopo che la partita è finita. Beh, staremo a vedere allora se questa proposta di Clarence Seedorf, di questa sorta di terzo tempo, ma anche di un protocollo che anticipi un po' la partita con chiare indicazioni di collaborazione, dialogo e rifiuto di ogni discriminazione, verrà effettivamente sviluppato. Le premesse ci sono. Un ruolo decisivo in questo senso lo svolgono anche i fischietti, gli arbitri, che ormai sono vincolati a una procedura sempre meglio definita dall'UEFA per far fronte, insieme a tutti gli altri operatori che si trovano a bordo campo durante un match internazionale, per far fronte appunto a manifestazioni, striscioni, cori razzisti, ma insomma sono anche sempre il fulcro della partita per quanto riguarda chiaramente le condotte disciplinari e il contrasto a questi comportamenti. Ne abbiamo parlato allora con il capo dei fischietti europei, Pierluigi Collina, che ha ribadito sia l'impegno degli arbitri sia anche la procedura che nei casi più spigolosi e più difficili i fischietti continentali di tutto il calcio europeo devono seguire. Sentiamolo. Gli arbitri chiaramente devono anche loro dare il loro contributo per quanto riguarda l'aspetto del razzismo. UEFA oramai da diversi anni ha implementato una procedura che deve essere messa in atto laddove ricorrano episodi di razzismo di una certa rilevanza. Gli arbitri sono chiamati insieme alle altre persone che governano, fra virgolette, la partita, per cui i vari responsabili delle varie aree attorno alla partita, a implementare questa procedura che ha come obiettivo quella di combattere il razzismo, di far fermare episodi di razzismo durante la partita, e che in estrema analisi può arrivare, in estrema razza, può arrivare a un abbandono, a una sospensione definitiva della partita stessa. Dagli arbitri passiamo a parlare delle sanzioni, no? L'altro tema forte del problema. Se ne è parlato nella conferenza di Roma, perché chiaramente si devono trovare sanzioni che non penalizzino tutti i tifosi, ma che al tempo stesso riescano a colpire quelli protagonisti di questi episodi di discriminazione. E al tempo stesso si è parlato ad esempio anche del riutilizzo delle multe, degli introiti delle multe, che piuttosto che essere ridistribuiti a pioggia potrebbero essere spesso invece utilizzati in quelle aree dove i fenomeni discriminatori diventano più pressanti ed evidenti. Staremo a vedere se l'UEFA riuscirà ad applicare un meccanismo ridistribuito di questo tipo. Si è parlato anche di quello che sono le sanzioni in Italia. Come sapete, c'è stata una sorta di attenuazione di quella tolleranza zero che l'anno scorso, a fronte di tanti cori di cosiddetta discriminazione territoriale, ha portato alla chiusura più volte ripetuta di molte curve degli stadi italiani. Ebbene, il presidente della Lega Calcio, Maurizio Beretta, ha difeso la nuova normativa specificandone i tratti. Sentiamolo. Noi abbiamo semplicemente cambiato il meccanismo di sanzione per evitare che sul meccanismo, diciamo, sulle manifestazioni di discriminazione territoriale si dessero a piccole minoranze di ultra delle forme, diciamo, di condizionamento forte contrarie all'interesse della totalità dei tifosi. Quindi non c'è nessuna nessuna differenza nell'approccio, non c'è nessuna diversità nella volontà di contrasto. C'è una, come abbiamo chiesto per tutto l'anno scorso, una diversa, diciamo, un diverso apparato di sanzioni che sia più efficace, che è combinato con le nuove norme che abbiamo condiviso con il governo e che quindi, come dire, di nuovo diventa uno strumento più forte nel contrasto a queste manifestazioni e non, diciamo, penalizza la stragrande maggioranza dei tifosi per bene. A bordo campo. Ancora insieme qui a bordo campo stiamo ripercorrendo temi e protagonisti della recente conferenza dell'UEFA sul rispetto e la diversità che si è svolta pochi giorni fa a Roma. UEFA che scende in campo in maniera sempre più decisa contro il razzismo. Beh, l'abbiamo detto, tanta retorica è inevitabile quando si tratta di questi temi, però se un merito l'ha avuto questa conferenza è quella di farci riscoprire alcuni aspetti centrali del gioco del pallone e anche alcuni protagonisti nascosti attraverso cui il calcio riscopre le proprie radici, una miriade di progetti legati all'inclusione sociale, alla lotta contro le discriminazioni che vanno dai grandi club, ci viene in mente proprio quello ad esempio della Juventus che sta sviluppando con l'UNESCO un rapporto specifico su calcio e discriminazione che sarà pronto a fine 2015, ma anche quello di tante altre realtà sparse per il continente, due su tutte, la Federazione Olandese che ha messo in campo un progetto specifico per contrastare l'omofobia e per aiutare quei giocatori gay e lesbiche che decidano di fare coming out, e un'altra associazione che in Romania ha sviluppato un progetto sempre legato al calcio per l'inclusione sociale dei giovani Rom. Insomma, intorno a tanta enfasi, a tanta retorica, c'è la possibilità di ritrovare lo spirito del calcio anche in un contesto così particolare come quello di una, anche in questo contesto. Proprio di questi punti abbiamo parlato con uno dei rappresentanti italiani della rete del Fare, che è la rete di contrasto ai fenomeni discriminatori messa in piedi e organizzata dall'UEFA, Carlo Balestri, rappresentante anche dell'UISP alla conferenza di Roma. Sentiamo cosa ci ha detto. Si va a due velocità anche in questo caso, per cui c'è un Nord Europa, soprattutto un'Inghilterra, una Germania, i paesi del Nord che su questo hanno comunque già segnato molti punti e hanno portato avanti delle politiche, insomma, quotidiane e anche abbastanza serie, hanno lavorato in maniera continuativa con le ONG, per cui le associazioni sul territorio che su questo sono competenti, e si è creato una bella sinergia. In Italia alcuni passi avanti sono stati fatti, però si lavora un po' più a pit stop, frenate brusche, ripartenze, così. Bisognerebbe da un certo punto di vista lavorare invece e programmare in maniera più continuativa, e poi bisognerebbe avere anche un po' più di attenzione. Io qua ho trovato anche un assente, che è l'istituzione, cioè il governo, che di per sé forse poteva dare un segnale proprio nel semestre in cui guida anche l'Europa, un segnale di attenzione anche rispetto a questa che è una, una manifestazione, un evento importante, ed è un riguarda il calcio europeo, per cui il calcio europeo è un fatto sociale molto rilevante, insomma, per cui può condizionare il comportamento di molte persone. Ecco, da questo punto di vista come si può, quali sono gli indicatori principali da attivare per riuscire a lavorare in rete, sia in quell'Europa del Sud cui accennavi, sia anche e soprattutto nel caso italiano? In rete vuol dire che bisogna uscire dalla logica che ci sono magari delle organizzazioni, tipo anche la nostra, insomma, che fanno delle cose meritorie, che cercano di fare un lavoro sul territorio con le loro competenze, con competenze comunque abbastanza riconosciute, e poi dopo partano magari delle iniziative spot di cui non sai neanche la competenza che ci sia. Bisognerebbe fare forse un lavoro con una bella regia anche di, prima di tutto, di formazione, perché quando qualsiasi tipo di azione si fa, adesso si è parlato anche dei calciatori simbolo che vanno nelle scuole, a me non sta bene, cioè nel senso che il calciatore simbolo deve sapere che cosa dire, perché sennò è inutile che vada nelle scuole a parlare o a commentare il fatto sul razzismo, perché rischia di fare più danni che altro. E questo che dico, quando si fa un sistema e allora ognuno ha le sue competenze e per le sue competenze viene messo in campo, si attua della formazione, si utilizzano i giocatori simbolo, si cerca di coinvolgere maggiormente il club, però all'interno di un percorso definito, concordato con chi questa materia ce l'ha in mano, altrimenti purtroppo si fa dell'altro. Quella di Roma è stata la quarta conferenza UEFA sui temi della diversità e del rispetto, in sostanza lo sappiamo, sui temi del contrasto al razzismo, segno che il problema ai noi è ben radicato nel nostro football. Da Roma quali sono i passi successivi che dobbiamo aspettarci e verso dove si va? Le conclusioni le lasciamo al professor Mauro Valeri, forse il maggiore esperto italiano e non solo di fenomeni di discriminazione legati allo sport, direttore dell'osservatorio sul razzismo nel calcio. Tanti problemi ancora da risolvere, ma anche alcuni punti su cui concentrarsi e in fondo anche un filo di speranza, che quella davvero non guasta mai. Sentiamo Mauro Valeri. Intanto penso che al di là della retorica però è importante ogni tanto ribadire che la lotta contro il razzismo deve essere una lotta forte, condotta da tutte le persone che hanno in qualche modo, sono chiamate in causa in quanto giocatori, dirigenti, e questo secondo me rimane comunque un messaggio molto importante. Discorso delle sanzioni. L'UEFA si interroga, no? Perché si cerca di non penalizzare tutti i tifosi, ma bisogna dare anche dei segni forti, concreti. Allora, io penso che la prima cosa è capire, per quanto riguarda l'Italia, che tipo di situazione c'è. Se c'è una situazione, come io ho sempre provato a denunciare, di forte compromissione delle partite per casi di discriminazione, è anche giusto che venga fatta una politica di tolleranza zero. Questa politica ovviamente ha anche degli aspetti, diciamo, critici, perché rischia poi di penalizzare troppo le persone che non c'entrano niente, quindi i tifosi che si trovano coinvolti e puniti a non poter andare allo stadio solo perché c'è una minoranza che fa cori razzisti. Questo è giusto tenerne conto, però è anche giusto avere un po' il coraggio di dire che realmente siamo noi in Italia in una situazione a grave rischio, e quindi quanto è stato adottato dalla UEFA e poi anche dalla Federazione Italiana Gioco Calcio a giugno del 2013 è stato importante e ha avuto dei risultati. Oggettivamente è stata una riduzione quest'anno degli episodi di razzismo nei campionati professionisti. Sarebbe importante modularla, perché come osservatorio abbiamo sempre detto che il vero obiettivo è quello di arrivare a colpire chi realmente mette in atto comportamenti di razzismo e non il settore, generalizzando in maniera impropria. Ultima sponda, ma altrettanto importante, l'Unione Europea. Da questo punto di vista a che punto siamo e quali altri passi vanno fatti a livello legislativo per garantire l'accessibilità al calcio di un flusso di migranti e di rifugiati sempre più importante? Allora, su questo penso che l'Unione Europea anche lì ci dovrebbe insegnare qualcosa. Noi siamo in ritardo perché siamo l'unico paese in Europa ad avere ancora una legge sulla cittadinanza basata sul diritto di sangue, quindi se un ragazzo nasce in Italia da due genitori stranieri, da noi è straniero, in altri paesi no. Questo è un problema perché impedisce di fatto a tantissimi ragazzini di sperare di fare una carriera professionistica. È stato detto anche durante la giornata che questa è una discriminazione cosiddetta istituzionale, che il calcio dovrebbe farsi promotore, secondo me, proprio di una modifica anche della normativa, come in altri paesi, la normativa ufficiale, ma provare anche a fare degli sforzi, come hanno fatto altre federazioni anche in Italia, di riconoscere quella che si chiama la cittadinanza sportiva, cioè equiparare il ragazzo che nasce e cresce in Italia a un italiano, al di là dei discorsi che poi vengono fatti sulla limitazione degli stranieri, perché questi ragazzi di fatti non sono stranieri. Quindi fare un discorso generalizzato sulla tutela dei vivai verso nei confronti degli stranieri rischia che questi ragazzini che si sentono e di fatto sono italiani vengano invece percepiti e puniti in quanto stranieri. Per a bordo campo di oggi è tutto, un grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo la nostra mail a bordocampo@radio24.it e vi ricordo anche che potete riascoltarci dal nostro sito radio24.it, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e scaricare sempre da radio24.it il podcast di tutte le puntate. Ora spazio a Giovanni Capuano e a tutti i convocati weekend. L'appuntamento con A Bordo Campo è per domenica prossima, sempre alle 16.30, e il sabato mattina in replica alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.